sorpreso dal giorno in realtà, sorridi d'inverno nell'aria, sospesa l'idea che sei qua, sorrisi d'autunno sono l'altra metà, sei solo caduto e lo sai, di foglie son fatti i miei. Preso dal giorno in realtà, sospeso tra gesti, sempre a metà, sorrido all'idea che non hai mai sorriso. Sei mesi, sei meno sei, sono un inverno.